Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di piccole imprese industriali. Ci collegheremo con Pandora Lois, che produce leghe in metallo per gioielleria, e con la Orizzonti Valerio Tagliacarne, il suo amministratore delegato, che fa gioielli personalizzati in pezzi unici. Lo sapevate che l'Italia è il paese delle piccole imprese? Probabilmente sì, ma forse non è così conosciuta la vastità della proporzione di piccole imprese. Per dirne una, in Italia ci sono 21,7 milioni di lavoratori dipendenti pubblici e privati, ebbene il 61% di loro lavora in piccole imprese, intendendo per piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti. Addirittura il 50,7% dei lavoratori italiani è impiegato in imprese con meno di 20 addetti. L'Italia è il primo paese europeo per numero di piccole imprese, e questo sarebbe positivo se non fosse che è anche un dato di forte rischio, perché la più elevata moria di imprese si ha tra le piccole. Nel 2014, secondo Unioncamere, il dato 2015 non c'è ancora, hanno chiuso i battenti in Italia 3.500 aziende, di queste 20.400 sono piccole. Le piccole imprese costituiscono insomma ormai l'ossatura del nostro sistema economico, ma sono anche la parte più fragile, più debole, intanto perché sono piccole, quindi sono meno forti per definizione, ma anche perché spesse volte gli imprenditori non sono molto preparati, magari sanno fare il loro prodotto, ma non sanno organizzare l'azienda. Infatti il terzo ospite che oggi abbiamo con noi, oggi una puntata ricca, è Alfio Bardolla, buongiorno. Buongiorno. Che è un coach di finanza, conosciuto come un coach di finanza, ma ha anche un programma di tutorship e insegnamento del management ai piccoli imprenditori. Infatti Pandora Lois e Orizzonte SRL, di cui parleremo spesso oggi, sono dei suoi ex allievi, possiamo definirli così? Sì, hanno seguito un programma di mentoring, quindi vuol dire che c'è un altro imprenditore che si è affiancato a loro e ha aiutato questo imprenditore a sviluppare tutte quelle procedure che servono per l'azienda. Il problema tipico dell'Italia è che noi ci troviamo davanti a un posto dove siamo bravissimi a fare il prodotto, ma siamo molto meno bravi a organizzare tutto il resto, quindi a gestire la parte finanziaria, a fare il marketing, a fare quello che viene chiamata lead generation e poi la vendita. Quindi tutte queste aree possono essere presidiate e in qualche modo automatizzate, ed è proprio lo scopo del programma Smart Business Lab. Sì, che sono 40 lezioni online più 40 ore di mentoring, dove un altro imprenditore segue questo piccolo imprenditore per cercare di svilupparsi e farlo migliorare e fargli automatizzare tutti i processi aziendali, di modo che l'azienda possa crescere avendo l'imprenditore sempre meno presente in azienda nelle cose pratiche, dell'operatività quotidiana, sempre più sulla strategia, sulla finanza. Certo. Ecco, allora, Elena Vellani, voi fate leghe metalliche per orificeria e argenteria. Ci può spiegare in due secondi di che cosa si tratta? Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, in sostanza le leghe per oreficeria sono, più esattamente le preleghe, sono quella parte di oro, di metallo, che va legato all'oro per portarlo a una caratura lavorabile. Ho capito. In sostanza, l'oro puro è 24 carati, l'oro commerciale è 18 carati. I 6 carati che mancano in pratica li metto io. Cioè il 18 carati è 750 parti di oro e 250 parti quindi di altro. Quindi i vostri clienti sono le aziende che producono gioielli in Italia? In Italia e all'estero. Ma perché per farsi fare queste leghe hanno bisogno di rivolgersi a un'azienda come la vostra, che addirittura ha la fonderia a Milano? Ci si aspetta che una cosa di questo genere si faccia con aziende magari straniere, magari a basso costo? Perché è necessaria la contiguità fisica? Innanzitutto è necessario il fatto che la lega garantisca tutta una serie di parametri tecnici, quindi il gioiello che esce, lo dirà probabilmente molto meglio l'altro ospite, il gioiello che esce deve essere, soprattutto nelle industrie, sempre dello stesso colore. Perciò, per esempio, quindi se ci vuole uno... un livello qualitativo, che garantisca la che è garantito anche dalla vicinanza fisica, perché così magari si può interagire col cliente durante la fase della produzione del gioiello. Beh, l'interazione con il cliente continua essenzialmente in fase di progettazione della lega, nel senso che il cliente ti deve dire in maniera molto trasparente che cosa deve produrre. Naturalmente produrre una cassa per orologio in oro bianco che ha un certo spessore è diverso da fare una catena con un filo capillare in oro rosso. Comunque voi avevate la fonderia nella, vicino alla vecchia fiera di Milano, bellissimo. Sì, sì. Siamo un'azienda storica, nel senso che comunque l'azienda è stata fondata nel 54 e poi sostanzialmente dal 60 ha iniziato a produrre esclusivamente leghe per oreficeria e argenteria. Quindi sì, per il comune di Milano siamo azienda storica. Ecco, fate circa 7 milioni e mezzo di fatturato. Sì, attualmente sì. Ecco, adesso i nostri ascoltatori sentiranno una breve scheda su Pandora Lois, dopodiché chiederemo come mai la signora Vellani si è rivolta a un programma di formazione. Pandora Alloys è un'azienda milanese fondata nel 1954, anche se solo dal 1965 produce leghe per oreficeria e argenteria, che sono anche l'attuale core business. Queste leghe permettono a oro e argento di venire plasmato in gioielli e orologi. La mission aziendale è di offrire una soluzione tempestiva e definitiva ai problemi tecnici di produzione nelle aziende orafe mondiali, offrendo il prodotto o l'utensile necessario ad ogni particolare produzione. Guidata da Elena Vellani, Pandora Alloys ha 20 dipendenti e ricavi per circa 7,5 milioni. Il 100% della produzione è concentrato nello stabilimento di Milano. Ci sono però filiali commerciali a Vicenza e in Thailandia, paese particolarmente importante per le strategie di internazionalizzazione dell'azienda. La capacità produttiva è di circa 105 tonnellate di leghe metalliche all'anno. L'offerta aziendale è di ben 5.000 articoli. Per poterli realizzare e vendere, Pandora Alloys è articolata in 4 divisioni che curano le leghe, gli ottoni e i bronzi, la galvanica, le forniture. Tutto questo si deve confrontare con un contesto produttivo che negli anni è diventato sempre più difficile e selettivo. Negli anni 90 l'Italia aveva capacità produttiva nell'industria orafa pari a circa 540 tonnellate annue, delle quali circa 400 erano destinate all'export. La produzione orafa mondiale era assestata poco al di sotto delle 2000 tonnellate. Adesso le cifre si sono radicalmente ridotte. La produzione dell'Italia è scesa a 86 tonnellate, circa un quinto rispetto agli anni d'oro, e nel mondo la produzione è di circa 1500. Rieccoci in linea dopo la scheda, siamo ancora con Elena Vellani di Pandora Alloys. Allora, io le volevo chiedere, ma questo programma di formazione che voi avete seguito, che risultati vi ha portato? Beh, innanzitutto risultati in termini di maggiore organizzazione, che è fondamentale nel momento in cui si pensa di crescere, di maggior fiducia in me, e questo è stato fondamentale per poter pensare a progetti più grandi. In termini di fatturato i risultati stanno cominciando a vedersi decisamente. Cioè, il merito è del programma Smart Business Lab? Il merito, loro lo dicono molto chiaramente, chi lavorerà tanto in questo percorso, l'imprenditore o il coach? È l'imprenditore che lavora tanto, quindi il merito è sicuramente, come dire, di aver dato fiducia al percorso, e il percorso ha dato fiducia a noi. Ma prima di fare il percorso voi eravate a rischio un po'? No, non eravamo a rischio. Diciamo che il rischio era quello di smettere di crescere. Beh, un'azienda se smette grave. Di crescere poi muore, vero Bardolla? Certo. Beh, diciamo che è un tempo di quietanza un pochino lungo, ma poi alla fine di crescenza un pochino lungo, ma poi alla fine... Di crescenza in crescenza, a furia di riposare c'è l'eterno riposo. Dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. OneExpress.it Pallet Network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi puntata speciale dedicata alle piccole imprese. Stavamo parlando con Pandora Lois, un'azienda molto interessante che fa lega in metallo per l'oreficeria e che ci stava dicendo che per continuare a crescere ha seguito un programma di formazione che si chiama Smart Lab del gruppo di Alfio Bardolla, che prevede accanto alla formazione che ci sia un imprenditore che è riuscito ad aggiustare la sua azienda, a fare un percorso di migliore organizzazione, che fa da mentore ad altri imprenditori. Elena Vellani, che qui ospite con noi, prima ha fatto il corso e ha potuto avere un miglioramento, e adesso è lei, no, che fa da mentore ad altri. Sì, esatto, adesso sto seguendo due che si chiamano aziende. Edivino e Rocco Commisso. Cosa fa Edivino? Sì. Fa vendita di vino online. E Rocco Commisso invece? Una vendita di minuteria, immaginiamoci una grossa ferramenta, ecco, una cosa di questo tipo. Quindi un tipo di attività molto simile al vostro. Ecco, Alfio Bardolla, ma lei si è messo a fare il coach dopo aver fallito un'esperienza di imprenditore giovanissimo, cioè a 19 anni. Lei aveva creato una società di informatica che si chiamava Infosystems, che era anche molto cresciuta sull'onda della New Economy, poi ha tentato di quotarla in borsa e invece c'è stato un disastro e lei ha fatto un po' come gli americani: imparo dai miei errori, sono più forte, adesso insegno agli altri. Sì, fortunatamente il disastro si è risolto in un grosso vantaggio, perché la mia piccola azienda poi era stata acquisita da un gruppo molto più grande che si chiamava ai tempi Soft People. Uh-huh. E quindi io ho potuto fare un po' l'amministratore delegato di una piccola azienda che fa parte di un grosso gruppo, acquisendo quelle capacità manageriali che poi avevo scoperto mi mancavano, quindi tutta quella capacità di gestire la parte finanziaria, il cash planning, il budgeting, la parte di marketing, la lead generation e via dicendo. E quindi a quel punto poi mi sono appassionato di formazione, in particolare di formazione finanziaria, e ho creato circa 29 aziende in diversi settori che ora fanno parte un po' del mio gruppo. Sia aziende di formazione, sia aziende di tipo completamente diverso. Sì, anche, non so, Arnold Coffee, che è una caffetteria americana a Milano, la catena è mia. Ad esempio, io ci vado sempre, quello vicino alla Cattolica. Sì, c'è in Statale, in Cattolica, adesso apriamo in stazione, c'è in Duomo, in Via Orefici. E quindi adesso insegnate anche agli imprenditori come fare e soprattutto come prendere confidenza con attività di tipo finanziario e organizzativo che magari sono lontane da chi è appassionato per lo più al suo core business. Sì, l'obiettivo di Smart Business Lab è fare in modo che l'imprenditore sia inutile alla propria azienda. Nel momento io sono inutile, la mia azienda può crescere indipendentemente dal fatto che io sia lì fisicamente a farla andare, e a quel punto mi posso concentrare sulle attività più core, che sono dare la visione alle persone, creare magari nuovi mercati, creare nuovi prodotti, individuare i soldi per poter crescere. Queste sono le attività più tipiche imprenditoriali. Invece molto spesso l'imprenditore italiano, soprattutto quello piccolo, si trova a far tutto, quindi al tiro sulla serranda, sono l'ultimo a uscire, e questo è frutto proprio del come lo faccio io non lo fa nessuno. Ecco, ma non è che noi siamo un paese che ha troppe piccole imprese, sono troppo a rischio? È un paese che ha troppe piccole imprese perché non esiste una capacità di poterle sviluppare e farle diventare più grandi, per una serie di motivi. Un po' sia la tipologia di finanziamenti, sia la tipologia anche di imprenditorialità che ha sviluppato l'Italia. Mancano grandi soldi alla fine, venture capital, queste cose qua sono cose che vediamo in questo momento storico in Italia, ma non c'erano sicuramente 10-15 anni fa. Quindi avevi soldi. E comunque queste piccole imprese non sono in grado di accedere a questi soldi. Anche un'impresa come la Pandora Lois, che abbiamo appena sentito, forse dopo che ha fatto il percorso con voi e dopo che cresce ancora un altro po', potrà farlo. Mi risulta che fattura 7,5 milioni, ce ne vuole ancora un po'. Sì, però in questo momento è in grado di andare da un imprenditore come un venture capital, quindi che non è un private equity ancora, ma una via di mezzo, e presentare della documentazione dove dimostra: questo è quello che fatturo, questo è l'EBITDA che faccio, questa è come è organizzata l'azienda, cioè non è una one man company, quindi se tu investi, non investi su di me, e quindi sono potenzialmente a rischio, ma investi su un concetto di business, su una struttura che funziona anche senza l'imprenditore principale. E questo favorisce molto l'ingresso di capitali all'interno di aziende. E quindi può poi crescere e diventare un po' meno fragile. L'altra azienda che è in collegamento con noi si chiama Orizzonti. Anche se credo che il marchio commerciale sia Inc., no? Abbiamo qui Valerio Tagliacarne, che è l'imprenditore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto, esattamente come dice lei, il marchio si chiama Inc. Pezzi Unici. E quindi voi fate gioielli su misura. Se io voglio, ho una fidanzata che mi adora e voglio regalarle gioielli con la mia immagine, voi li fate? Assolutamente sì, è quello che facciamo, è il nostro mestiere. E come dice il marchio stesso, utilizziamo ink, quindi dell'inchiostro per andare a colorare queste incisioni, e sono pezzi unici proprio perché ogni cosa che esce dal nostro, ogni gioiello che esce dal nostro laboratorio è un pezzo unico. Questo è interessante. Voi siete un po' più piccolini, perché Pandora Lois erano 7 milioni e mezzo di sono 7 milioni e mezzo di fatturato, voi siete intorno ai 700.000, però quest'anno puntate al raddoppio? Sì, puntiamo al raddoppio perché una delle nostre problematiche non era tanto creare mercati, ma essere scalabili a livello produttivo, nel senso che abbiamo sempre fatto tutto artigianalmente, manualmente, siamo riusciti a sviluppare invece della tecnologia che ci permetta di essere customizzatori di massa. Questo è molto interessante, anche perché vuol dire che molte tecnologie sono un investimento fisso, un costo fisso. Se aumenta il fatturato viene ammortizzato meglio l'investimento. Assolutamente, quello che è un po' la base del nostro sviluppo di business. E ci può sintetizzare qual è il percorso che avete fatto con Smart Business Lab? Come diceva la mia collega, la chiamo così, anche per me, che sono l'amministratore unico, ma di base il fondatore, è arrivato un momento della mia storia personale in cui quello che necessitavo era soprattutto chiarezza, cioè chiarezza di quello che doveva essere il mio ruolo come imprenditore. Proprio come diceva Alfio, molto meno operativo e più visionario e strategico. Quindi diciamo che il lavoro principale che ha fatto su di me questo percorso è di chiarezza, sapere su cosa dovevo mettere l'attenzione, perché il rischio è quello proprio di fare confusione sui tanti input e le tante mansioni che un imprenditore, un'azienda in generale si trova a dover... Ma perché lei ha sentito bisogno di rivolgersi a un corso come questo e non per esempio di andare a fare un master oppure di rivolgersi alla sua associazione imprenditoriale? Semplicemente da una lettura proprio di un libro di Alfio Bardolla e del socio Lorenzo Haidt, si chiamava, se non vado errato, Business Coaching. Business Revolution, esattamente, e da lì si parlava di questa possibilità di affrontare anche di persona questo percorso. Allora, siccome ho ritenuto la lettura assolutamente interessante, ho voluto approfondire. Ecco, il cambio di marcia, lei mi diceva prima che iniziassimo a registrare, ve l'hanno dato i social network. Come vi è venuta l'idea di andare su Facebook e su altri social network per vendere i vostri gioielli? Ma è stato sicuramente un esperimento, fortunatamente è andato a buon fine. Noi eravamo già presenti con la nostra pagina Inc. Pezzi Unici su Facebook e abbiamo cominciato a vedere che ogni volta che pubblicavamo qualcosa di particolare c'era un buon feedback da parte dei nostri diciamo like. La devo interrompere perché abbiamo 2 minuti che voglio lasciare ad Alfio per parlare di piccole imprese produttive, perché molte sono commerciali, servizi, turistici, molte di quelle visibili, ma dai dati Istat emerge che la maggior parte delle piccole imprese che nascono sono manifatturiere. Ecco, c'è da fare qualche considerazione su questo? Beh, noi siamo un popolo concentrato tutto sul prodotto e questo da una parte è una cosa fantastica, dall'altra parte è un male, nel senso che il male è che la troppa concentrazione sul prodotto poi ci fa perdere di vista le cose importanti, che sono il marketing e la vendita. Se noi prendiamo gli americani, che sono il primo paese al mondo, loro sono magari hanno dei prodotti di minore qualità, ma sono bravissimi a comunicarlo verso l'esterno, quindi a marketarli nel modo giusto e poi soprattutto andare a cercare i canali di vendita. Proviamo a pensare alla pizza, l'abbiamo inventata noi e poi i soldi con la pizza li fanno gli americani. Quindi anche se la pizza non è di qualità, però i sistemi dominano sul prodotto di qualità. Quindi adesso dobbiamo fare in modo che gli imprenditori siano focalizzati nell'andare nei nuovi mercati a cercare di vendere il prodotto italiano. Abbiamo la fortuna di avere... E voi li assistete anche in questo? Li assistiamo anche in questo, perché chiaramente una volta che c'è il processo... Quante imprese seguono questo tipo di corsi, allora, di Smart Business Lab? Allora, circa 50 nuove imprese al mese. Quindi è un tutti i mesi abbiamo dalle 30 alle 50 aziende nuove che entrano in questo processo, e quindi quest'anno probabilmente seguiremo più di 600 piccole aziende, piccole e medie, perché ci sono anche aziende che fatturano 10-15 milioni di euro. Nella... E quindi questo vuol dire che c'è un bisogno inespresso nel paese di questo tipo di assistenza, sì, che l'imprenditore è solo. Sì, perché le associazioni di categoria molto spesso non assolvono questo compito, ma perché? Perché non hanno degli altri esempi di successo. Quindi non è una persona che va lì e gli spiega... E c'è il professore, ci deve essere un altro imprenditore. C'è un altro imprenditore che gli dice: ascolta, hai problemi con la banca, vieni qua che ti porto io in banca. Ecco, che è perfetto, una cosa così. Parlerei ancora con lei per ore, ma il tempo è tiranno. Ringraziamo prima i due imprenditori. Ancora collegata con noi la signora di Pandora Lois. Sì, grazie. Arrivederci, grazie, Elena. Arrivederci. Arrivederci a Valerio Tagliacarne. Arrivederci, grazie. E arrivederci, grazie, ad Alfio Bardolla. Grazie, arrivederci.